Il punto di Stefano Folli. È giusto ricordare che il secondo turno nelle primarie del Partito Democratico l'ha voluto Bersani. Magari, si potrebbe pensare con un po' di malizia, l'aveva deciso quando temeva di non arrivare in testa al primo turno. Comunque sia, è stata un'ottima idea. Adesso è necessario però che questa settimana trascorra in un confronto civile e senza eccessive polemiche. Purtroppo ci sono regole molto astruse, a dir poco, che rendono difficile andare a votare al ballottaggio se non si è già votato domenica scorsa. Sembrano fatte apposta per complicare le cose e distrarre dal dibattito sui temi concreti, che invece è un'occasione unica per immaginare quale identità dovrà avere il PD di domani. Bersani e Renzi esprimono due punti di vista piuttosto netti, se non avranno paura di esprimerli per quello che sono. Il primo descrive una forma di socialdemocrazia, il secondo un laburismo all'inglese ma nel senso di Tony Blair. I dibattiti televisivi quindi saranno tutti da ascoltare, convinti come siamo che comunque vadano le cose, il centro-sinistra poi non sarà più quello di prima.